Oggi cominciamo a vedere insieme quello che il Signore vuole dirci per quest'anno. Quanti sono entusiasti di questo? Ah, due o tre di voi, quanti sono entusiasti? Siamo qui perché vogliamo camminare con Dio, vogliamo camminare per Dio, sappiamo che Lui è vivo, amen. Il nostro Dio non è morto, o meglio è morto ma è risorto dopo tre giorni, è più vivo che mai e quindi parla, Lui agisce, Lui ci ama, Lui si fa presente, Lui si manifesta. Se ancora non hai avuto il privilegio della manifestazione di Dio, ho una buona notizia per te, Lui si manifesterà, perché è vivo. E non rimane muto, e non rimane distante, ma è interessato a te e si manifesterà. Allora, qual è il tema di quest'anno? L'avete letto? Diciamolo insieme, al mio 3, 1, 2, 3. Che bella dichiarazione da fare insieme, vero? Facciamolo ancora una volta, 1, 2, 3. Chiudi gli occhi, dillo ad alta voce, davanti al nemico, davanti al disorientamento, davanti ad ogni minaccia, davanti ad ogni ostacolo, noi andremo, uno, due, tre, verso la tua direzione. Amen, amen. Noi andremo verso la direzione di Dio, di nessun altro, di Dio. E quindi io sono molto contento di poter cominciare nel trattare questa tematica che ci accompagnerà per tutto l'anno e sarà molto bello poterlo fare, sarà molto divertente poterlo fare nelle prossime tre domeniche e mi è venuto subito in mente una domanda con la quale cominciare. Vi è mai capitato di perdervi? A chi non è capitato di perdervi? Perdersi, no? Io ho mia moglie che è la campionessa del disorientamento quando si tratta di trovare strada, no? E io mi diverto a volte, a mia moglie chiedo: senti, secondo te a questo punto dove dovremmo andare? Perché se lei dice a destra è sicuramente a sinistra, se lei dice dobbiamo andare avanti sicuramente c'è da andare indietro. Ma mi riferisco solo all'orientamento geografico, per tutto il resto è molto orientata. Però quello che voglio dire è che tutti noi ci siamo prima o poi persi, che sia in macchina o a piedi, e dovete sapere che io sono cresciuto, la mia infanzia e la mia adolescenza prevedeva dei viaggi annuali in Olanda, perché mia madre è olandese, tutti voi lo sapete, quindi ogni estate andavamo in Olanda, e questo prima che ci fossero gli smartphone. Smartphone significa telefono intelligente, infatti è intelligente in quanto ci offre l'opportunità, tra tante altre applicazioni, di orientarci e di indicarci la strada in qualsiasi momento. Infatti è molto più difficile oggi smarrirsi se hai uno smartphone. Tutti noi possiamo facilmente trovare la strada che ci indica dove andare, ma questo non era vero quando ero bambino, io adolescente. Era un tempo che precedeva anche il tempo del Tom Tom. Ve lo ricordate il Tom Tom? Era un tempo nel quale si utilizzavano le cartine stradali. Ma quanto mi sto sentendo vecchio a fare questa illustrazione. Le cartine stradali, vi ricordate? Che ad aprirle era divertente e a chiuderle avevi bisogno di qualche aiuto esterno, no? Le cartine stradali ti indicavano la strada e ti indicavano la strada. Vi faccio vedere una foto, vedete? E indicavano le tipologie di strade diverse, l'autostrada in arancione, la strada statale in rosso, quelle provinciali in giallo e poi le stradine più piccole, ma la cartina geografica era un problema e ci si perdeva puntualmente. Io mi ricordo nei nostri viaggi, che dovevano durare due giorni, è già tanto tempo, no? Perché era in auto con l'Opel Kadett, non ricordo ancora, senza aria condizionata, nel pieno d'agosto. E fin quando rimanevi in autostrada, la strada era abbastanza dritta, però quando c'era una deviazione per un lavoro, e allora dovevi ricorrere alla cartina geografica. Papà molto spesso si doveva fermare, già solo per aprirla, perché sennò si bloccava la vista, e quindi dovevi aprirla, capire dove ti trovavi e ritrovare la strada per arrivare fino in Olanda. Insomma, un'impresa incredibile. Però questo è come noi ci orientavamo, e grazie a Dio le cose sono cambiate. Amen. Grazie a Dio le cose sono cambiate, la tecnologia a volte aiuta, a volte serve, c'è una cosa buona che fa il nostro smartphone. Però che cosa voglio dire con questa illustrazione? È che veramente la cartina geografica aveva diversi limiti. Prima di tutto, se tu non fai il percorso giusto, lui non te lo ricalcola, la cartina geografica non ti ricalcola il percorso, giusto? Non c'è una voce guida che ti dice ora devi svoltare a destra, ora devi svoltare a sinistra. La cartina geografica non ti dice questo. E soprattutto, cosa da non sottovalutare, la cartina geografica non ti dice dove sei. E se tu sei perso, puoi aprire la cartina geografica, ma non chiedi aiuto, perché prima di tutto devi capire dove ti trovi e la cartina geografica non ti può dire dove ti trovi. C'è una migliore guida per le nostre vite, delle emozioni del momento, di quello che gli altri fanno, delle indicazioni che possiamo percepire nel nostro viaggio chiamato vita. C'è un mezzo migliore per orientarci, e il mezzo migliore per orientare la tua vita ha un nome. Il suo nome è Cristo Gesù. Lui non è solo il salvatore delle nostre vite, lui è anche la guida delle nostre vite. Lui si presenta a noi, oltre che come salvatore, anche come buon pastore che guida le sue pecore, va avanti e noi lo seguiamo, seguiamo la sua voce. E allora io voglio incoraggiarci, a partire da questa domenica, a prendere in considerazione cosa sta orientando il tuo percorso, cosa sta orientando le tue scelte di vita, cosa sta orientando ricalcolo del percorso che stai vivendo. E voglio invitarti ad ascoltare la voce maestra, la voce guida. Lo vogliamo fare insieme? La voce di Dio l'ascoltiamo ogni qualvolta apriamo la sua parola, e vogliamo aprirla insieme nel libro di Ruth. Per 3 domeniche di seguito predicherò su questo meraviglioso, stupendo libro della Bibbia che si trova nel Vecchio Testamento, e quindi leggeremo tutto il primo capitolo del libro di Ruth e vogliamo così ascoltare la sua voce. Amen. Vogliamo pregare un attimo? Signore, vogliamo ascoltarti. Siamo qui perché riconosciamo che altrimenti siamo persi, altrimenti siamo disorientati. Se tu non fai sentire la tua voce, se tu non ci parli, se tu non ci indichi la via, noi sì, possiamo scegliere mille vie diverse, ma non ci porteranno a quella vita fruttuosa, piena di scopo, pieno di senso che tu invece vuoi darci. E allora parla questa mattina, ti prego, ai cuori di ciascuno di noi, nel nome tuo santo. Amen. Amen. Leggiamo insieme. Questa è da una versione un po' più in lingua corrente, un po' più facile nella lettura. Dice così: tanto tempo fa, quando i giudici erano a capo del popolo di Israele, ci fu una carestia nel paese. Perciò un certo Elimelech, della regione di Efrata, abitante a Betlemme di Giuda, si trasferì nel paese di Moab insieme a sua moglie Noemi, altre traduzioni mettono il nome Naomi, e ai suoi 2 figli Maclon e Chilion. Elimelech morì e Noemi restò sola con i suoi 2 figli, che avevano sposato 2 ragazze moabite, Orpa e Ruth. Abitarono là circa 10 anni, poi morirono anche Maclon e Chilion, tutti e 2, e Noemi rimase sola, senza marito e senza figli. Noemi venne a sapere che il Signore era intervenuto per il suo popolo, procurandogli del cibo. Allora con le sue 2 nuore si preparò a lasciare il paese di Moab, lasciò il posto in cui era andata e con le 2 nuore si mise in cammino verso il territorio di Giuda. Noemi disse alle nuore: torni ognuna a casa di sua madre e che il Signore sia buono con voi come voi siete state buone con me e con i miei morti. Il Signore vi conceda di trovare pace ognuna nella casa del proprio marito. Poi Noemi le baciò, ma esse piangendo la supplicarono: «No, vogliamo venire con te, tra la tua gente. Tornate indietro, figlie mie», soggiunse Noemi, «perché volete venire con me? Tornate a casa, io non ho altri figli da darvi, ormai sono troppo vecchia per sposarmi, e anche se avessi la speranza di farlo e avessi effettivamente dei figli, potreste voi aspettare che crescano? Nel frattempo rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, il Signore ha colpito me, soffro già molto io, non dovete soffrire anche voi». Ma esse ripresero a piangere, poi Orpa salutò la suocera, la baciò e tornò a casa sua. Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse: «Tua cognata è tornata dal suo popolo e dai suoi dei, vai anche tu con lei». Ma Ruth rispose: «Non chiedermi più di abbandonarti, lasciami venire con te. Dove andrai tu, verrò anch'io. Dove abiterai tu, abiterò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove tu morirai, morirò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi punisca se io ti lascerò. Solo la morte potrà separarmi da te». Allora Noemi capì che Ruth era ormai decisa ad andare con lei e non aggiunse altro. Continuarono il cammino fino a Betlemme. Appena arrivarono, tutta la gente si commosse e le donne dicevano: «Ma è proprio Noemi!» «Non chiamatemi più Noemi», essa rispondeva, «chiamatemi Mara, perché Dio Onnipotente ha reso amara la mia vita. Me ne andai di qui nell'abbondanza, ma il Signore mi ha fatto ritornare senza nulla. Perché mi chiamate Noemi se il Signore si è voltato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così Noemi tornò a Moab insieme a Ruth, la sua nuora moabita, e quando arrivarono a Betlemme era appena cominciata la raccolta dell'orzo. Domenica prossima continueremo la lettura. Continueremo la lettura nel capitolo 2 di Ruth. Però io vorrei soffermarmi su due versi di questo intero capitolo. Il primissimo verso, che ci fa capire ancor meglio quanto fossero avverse le circostanze di queste donne. E lo leggiamo, lo rileggo. C'è scritto: «Tanto tempo fa, quando i giudici erano a capo del popolo di Israele», quando i giudici erano a capo del popolo di Israele, ci fu una carestia del paese. I giudici erano a capo del popolo di Israele in un periodo di tempo buio, un tempo anarchico, un tempo di confusione. Leggete cosa nel libro dei giudici c'è scritto di quel tempo. Per ben due volte noi troviamo le stessissime parole ripetute in questo libro e leggiamo: «In quel tempo non vi era re in Israele». Non vi era una guida, non vi era re in Israele. Ognuno, ascoltate ora, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Come si navigava? A vista. Come ci si orientava? A naso. Avete mai sentito questo modo di dire? Che poi che significa? Non lo so, essere orientati a naso. Cioè che vai nella direzione del naso, dovunque punta il tuo naso, lì vai. È istintivo, no? A naso può andar bene per un cane. Loro fiutano e sanno trovare la strada, ma per un uomo, per una donna, andare a naso significa perdersi. Il popolo di Israele era perso, non aveva guida, era disorientato, ognuno andava per la propria strada, c'era confusione. No, non vi ricorda un po' la condizione che viviamo noi oggi? Non vi ricorda un po' la società nella quale noi ci troviamo oggi? E quindi La situazione di Noemi e di Ruth e di Orpa è delle più terribili, perché vivono in tempi bui, vivono in tempi di carestia, vivono in tempi difficili, e non solo, ai tempi difficili si aggiungono circostanze difficili. Quanto avete mai sentito il detto che piove sempre sul bagnato? È così, a volte il male non si ferma e a male si aggiunge altro male. La tragedia della vita di Noemi sta nel fatto che lei perde il marito e perde anche i suoi due figli. Non c'è proseguo di eredità di questa famiglia. Elimelech non avrà più eredi e ora si ritrova sola con le due nuore. Ancora più terribile è la situazione di Noè, di Ruth, perché Ruth si ritrova ora da sola con sua cognata e sua suocera. Una suocera che è amareggiata, è vedova, è sola, è senza possibilità di provvedere per se stessa. E Ruth si sente ora responsabile della vita di questa donna. A questo si aggiunge il fatto che sua cognata, che avrebbe potuto dare una mano, sceglie la via più comoda. Lei se ne torna a casa dei suoi genitori, lei se ne torna tra i suoi moabiti, il suo popolo. Ma Ruth no. Ruth sceglie di rimanere con la sua suocera. E sfido chiunque. Già non è facile prenderti cura di una suocera. Figuriamoci se poi è amareggiata dalla vita. L'abbiamo sentito quanto fosse amareggiata. Ruth si orienta secondo delle indicazioni che vanno fuori da ogni logica, che vanno fuori da ogni emozione, che vanno fuori da quello che può essere un seguire un percorso comodo. Però vi devo spoilerare il finale. Non possiamo rimanere nel capitolo 1. Alcuni di voi non conoscono la storia e allora vi voglio dire che questa è la storia più meravigliosa che si possa trovare nella Bibbia. È una storia di riscatto straordinaria, una delle più belle dell'umanità. Dovete leggere questo libro, lo dovete fare assolutamente, facciamolo insieme, perché è un libro meraviglioso che ci parla del Dio pieno di grazia e pieno di bontà che noi abbiamo, il Dio del riscatto, dove anche le situazioni più tragiche, più tristi, più buie, lui le sa ribaltare completamente. Questa è la storia di Ruth. La storia di Ruth comincia male, si prospetta peggio ancora di come è cominciata, però poi ha pieno riscatto. Che cosa succede a Ruth? Beh, Ruth trova marito. E che marito? Trova un uomo integro che ama il Signore, che provvederà a lei e che provvederà anche a sua suocera. Troverà un marito straordinario, perché è un marito che ama Dio, è timorato di Dio, è un uomo generoso, è un uomo che è premuroso, un uomo che è protettivo. Ogni uomo dovrebbe leggere il libro di Ruth per orientarsi e capire che uomo essere, perché questo è un esempio meraviglioso. Boaz è un tipo di Cristo. E questo libro della Bibbia ci parla di come Dio è capace di riscattare completamente, riscrivere la storia. Quindi in che cosa ci imbattiamo? Ci imbattiamo in un finale a lieto fine. Ci imbattiamo in una storia che è ribaltata completamente. Ci ritroviamo in una storia che parla di riscatto, e di un riscatto talmente grande che dovete immaginare che dopo che Boaz e Ruth si sposano hanno un figlio, Obed. E sapete chi è Obed? Obed è il nonno del re Davide. Cioè stiamo parlando della genealogia di Cristo stesso. Ruth, da essere una vedova, straniera, povera, disorientata, con una suocera amareggiata, diventa una delle pochissime donne, delle cinque donne che si citano nella genealogia di Cristo stesso. In un tempo nel quale noi leggiamo più volte che non c'è re per il popolo di Israele, Dio parallelamente si sta scegliendo la vita di una donna che è disposta a scomodarsi, a seguire le sue indicazioni, come vedremo, per fare di lei un esempio di riscatto e non solo, fare di lei un mezzo di riscatto per i popoli interi, perché attraverso Ruth nascerà Cristo Gesù. Questo è il Dio meraviglioso che noi abbiamo. E allora che cosa abbiamo da imparare da questo primissimo verso, dai tempi bui e dalle circostanze avverse? Beh, c'è una lezione che dobbiamo imparare della buona notizia, che Dio è sempre capace di dare guida e direzione, è sempre capace di dare guida e direzione, non importa quanto buio c'è attorno a te. Non importa quanto sciagurate siano le circostanze che vivi, Dio non è impossibilitato da darti quelle indicazioni che porteranno te e chi ti circonda a pieno riscatto. Non è una buona notizia questa? Dio non è impedito. Dio non è limitato, Lui può ridirezionare la tua vita, non importa quanto gravi e sbagliate siano state le tue scelte passate, non importa quanto gravi e pesanti siano state le scelte di chi ti circonda, di chi è attorno, di chi è capo su di te, sulla tua vita, non importa quanto gravi siano le scelte dei nostri governatori, non importa il mondo nel quale ci troviamo, perché il nostro Dio è sovrano e Lui è superiore. Alleluia! E Lui ci guida nonostante tutto e Lui ci sa ridirezionare. Quello che dobbiamo fare è imparare a lasciarci guidare da Lui. Non c'è nessuno che possa determinare la direzione della nostra vita più di quanto lo possa fare Dio, perché Lui è in controllo su tutto, Lui è sovrano, Lui ha l'ultima voce in capitolo. Qualcuno è venuto prima che cominciasse l'incontro a farmi gli auguri, mi ha dato una parola, ha detto questa è una parola che il Signore ha dato a me per quest'anno e io l'ho ascoltata e in me è nato un sorriso perché nei miei appunti Lui ha l'ultima voce in capitolo. Sulla tua storia, sulla tua vita, sul tuo percorso, su quello che vivrai, Lui ha l'ultima voce in capitolo. Il nemico lo vuole farci credere che le nostre circostanze sono troppo difficili a volte per poter vivere una vita fruttuosa. Il nemico è astuto, il nemico vuole farci credere che ciò che viviamo è troppo gigante, troppo insormontabile. Il nemico ci vuole trascinare a quell'amarezza che abbiamo letto di Noemi. Mi dispiace dirtelo, Noemi, però non è proprio un personaggio perfetto, ha un bellissimo nome. Che tra l'altro cambia. Noemi, ve lo dico, significa piacevole, dolce. E lei dice, no, non chiamatemi più piacevole, dolce, chiamatemi amara, perché Dio ha reso amara la mia vita. Oh, non fare l'errore di attribuire a Dio la causa delle tue amarezze, perché Dio ha un altro ruolo nella tua vita, quello che vediamo nella storia di Ruth. Lui è colui che riscatta, Lui è il Dio sempre buono, Lui è colui che ti ridireziona. Avremo modo di studiare le scelte, anche sbagliate, di Elimelech e dei figli che sposano Moabite, potremmo parlare a lungo delle scelte sbagliate che ci sono in questa storia. Ma Dio, nonostante tutto, riesce sempre a trovare una strada. E allora non attribuire a Dio colpe che Lui non ha e non vivere nell'amarezza, perché il nemico ti vuole trascinare nell'amarezza per sabotare il tuo destino. Il tuo nemico vuole farti frenare dalla paura e il tuo nemico vuole farti frenare dalle scelte più sagge, direzionandoti verso quelle scelte che sono più comode. Orpa, non sappiamo che storia avrà, ma sappiamo che esce fuori di scena, fuori da questa gloriosa immagine, questa gloriosa storia di Ruth e di Noemi. Se non altro, avrebbe potuto far parte di tutto questo, avrebbe potuto beneficiare. Boaz avrebbe preso cura tanto di Noemi, come ha fatto, quanto di Orpa, se avesse voluto. Ma Orpa che fa? Sceglie la strada più comoda. Torno a casa dei miei genitori, è più facile. C'è una continuità nel testo biblico dove noi scopriamo che molto spesso Dio ci guida in quella che è la strada più scomoda, che però poi si rivela la più gloriosa. È Gesù che lo dice. Entrate per la porta stretta, perché larga è la strada, larga è la porta e spaziosa è la via che porta a perdizione però. È comoda, è a quattro corsie, non ha curve, impervia invece la strada che conduce alla vita. E allora c'è qualcosa che noi, alla quale noi dobbiamo rinunciare, che è la comodità. Scomodati, chiedi al Signore, dammi indicazioni. E se te le dà, falle, seguile, saranno scomode, ma porteranno gloria. Il secondo verso. Oh, questo è cruciale, questo è il verso dei versi. Questo è il verso più importante di questo capitolo, ma è anche il verso più importante di questo libro e, se permettete, è uno dei versi principali di tutto il testo biblico. Qui noi leggiamo, è un verso che viene usato in tante diverse occasioni, ma se ne cogliamo il vero senso e il vero peso di queste parole, allora scopriremo quanto questo verso dovrebbe definire anche il nostro percorso e può darci vero orientamento. Parlo del verso 16 che abbiamo nel capitolo 1 di Ruth. La risposta, il primo discorso diretto di Ruth a sua suocera Noemi. Ruth rispose: non chiedermi più di abbandonarti, lasciami venire con te. Dove andrai tu, verrò anch'io. Dove abiterai tu, abiterò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo. È sottolineato, evidenziato, e voglio dare molto accento a questo, il tuo Dio. Il tuo Dio, Noemi, il tuo Dio, il Dio creatore, il Dio che è sovrano, il Dio redentore, il Dio che libera, il Dio che guarisce, il Dio che è sopra ogni altra autorità, il tuo Dio sarà il mio Dio. Non date per scontato queste parole. Stiamo parlando di Ruth, che è una moabita, aveva altri dei. E quello che sta dicendo con queste parole è: io do le spalle agli dei con i quali sono cresciuta. Io do le spalle a quello che il mio popolo, la mia famiglia, tutti coloro attorno a me credono, per seguire chi ancora non conosco molto bene, ma so e percepisco che è la scelta migliore per la mia vita. La scelta migliore per le nostre vite è seguire il giusto Dio. Fatemelo dire diversamente: il Dio che segui è il Dio che ti guiderà. Il Dio che hai è il Dio che ti guiderà. Chi è il tuo Dio? Torniamo alle basi. Chi è il padrone della tua vita? Chi è oggetto di adorazione per te? Chi è che prende priorità su tutto? Chi è il tuo Dio? Dov'è il tuo cuore? Dov'è la tua passione? Da chi dipendi? Chi è il tuo Dio? Chi è il tuo Dio? È una domanda alla quale è importantissimo che noi rispondiamo, perché chi è il tuo Dio definirà dove andrai, cosa vivrai, cosa sperimenterai, che destino, che riscatto ci sarà, che storia per la tua vita e per coloro che ti circondano. Ruth sceglie il Dio di Noemi. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Questa è la conversione. Questa è la conversione di Ruth. Questo è un girare a 180 gradi e cambiare radicalmente direzione. Se ancora non hai scelto Gesù quale Dio della tua vita, questa è la scelta migliore che puoi fare. Non si tratta di una religione, non si tratta di una filosofia di uomini, non si tratta di seguire le istruzioni e gli insegnamenti di un grande saggio, perché Gesù non è solo questo, lui è Dio. Significa arrendere completamente la tua vita e dire: io non conto, perché io sono creatura e devo riconoscere chi è il creatore. Questo significa fare di Gesù il tuo Dio, non un buon compagno di viaggio. Non lo metti a fianco per l'occorrenza quando ne hai bisogno, no. Quando tu riconosci che Gesù è Dio, lui è superiore, non è una creatura come te, è il creatore. e tu ti abbassi, ti sottometti, segui la sua guida. E questo è quello che Ruth sta facendo. Il tuo Dio sarà il mio Dio, una scelta determinante. E permettetemi, questa è la scelta che permette a Ruth di vivere il riscatto che avrà, di essere quello che è, e poi un giorno di ritrovarsi in cielo. Ma voi ve lo immaginate, Ruth, che cosa ha vissuto in cielo? Perché Ruth non sa il proseguo della storia, non sa che è rientrata nella genealogia di Gesù, non conosce neanche bene Gesù. Ora però che è a faccia con lui, alla presenza del Padre e dello Spirito Santo in cielo, si rende conto che la sua vita è stata riscattata, che lei ha avuto marito, che lei ha avuto un figlio, ha avuto una storia completamente riscritta, ma non solo, che la sua storia ha un impatto per il futuro delle generazioni, che la sua storia rientra in un piano di riscatto per tutto il mondo. Ve lo immaginate la sorpresa di Ruth quando era in cielo e si rende conto che da Obed nasce poi Isai, e poi da Isai nasce Davide, e poi si rende conto che già Davide è qualcosa di glorioso, ma poi si rende conto che non c'è solo questo, c'è un re ancora più glorioso, una guida ancora più migliore, che sarebbe scaturita dal re Davide, Gesù Cristo, Dio che si fa uomo nella genealogia di Ruth. Tu e io siamo Ruth. Tu e io siamo parte della genealogia di Cristo. Ci hai mai pensato? Ruth è parte della genealogia ascendente. Tu sei parte della genealogia discendente. Giovanni dice: a coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di essere figli di Dio. Tu entri a far parte della famiglia di Dio nel momento in cui fai la scelta di dire: il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo. Tu entri a far parte del popolo di Dio, sei parte del popolo di Dio. Sei parte della famiglia di Dio, sei discendente, sei, la Bibbia dice così, figlio di Dio e fratello di Gesù. Oh, questa è una cosa proprio troppo misteriosa, troppo grande per noi, come fratelli di Gesù. Vedete a che livello Dio ci mette. Oh, Gesù è Dio, è superiore, ma al tempo stesso è uno con noi, è uno fra noi, è uno alla pari, e noi entriamo a far parte della famiglia mediante il sacrificio di Gesù che questa mattina celebriamo. Ora io voglio concludere. La mia conclusione è molto semplice. E sono tante domande. Dove stai andando? Chi ti sta guidando? Chi è il tuo Dio? Qual è la tua storia? Dove pensi che ti porterà la tua storia? Sono tante domande che voglio farti questa mattina, ma non per confonderti ulteriormente, ma per permetterti di comprendere che a tutte queste domande e molte altre c'è una risposta. Colui che ti ama, colui che è venuto, colui che si presenta quale sommo pastore, e vuole guidare la tua vita. A te sta scegliere se permetterglielo di fare. A te sta scegliere se andare nella direzione di ciò che è logico, di ciò che è comodo, di ciò che sentimentalmente ti senti più incline a fare. A te sta la scelta se seguire la mappa geografica che guida la maggior parte delle persone, o se scegliere la parola di Dio e aprirla quale indicatore, come abbiamo fatto insieme questa mattina. A te sta la scelta se essere un Ruth o se essere un Orpa o se essere un Noemi. A te sta la scelta di dove ritrovarti nella tua storia. La mia preghiera è che questa mattina tu possa scegliere il giusto Dio, perché il Dio che scegli sarà il Dio che ti guiderà. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo chiudere i nostri occhi. Voglio dire ad alcuni di noi, mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, voglio dirti questa mattina: lascia la paura, lasciala. Voglio dire ad alcuni di noi: lascia ciò che è comodo, lascia. Voglio dire ad altri di noi: lascia ciò che è il tuo buon senso e il tuo buon orientamento. Ti ha portato fin dove ti trovi ora, e non voglio dire che è male dove ti trovi ora, ma c'è una strada ancora più gloriosa che dipende dal tuo lasciarti guidare dalla voce di Dio. Lascia la cartina geografica, ascolta la voce di colui che meglio può indicarti. Lasciagli gli altri dei. Voglio dire ad alcuni di noi, lascia falsi dei. Lascia il Dio denaro. Mi avete ascoltato, sì? Lascia il Dio denaro. È Gesù che dice, non potete servire Mammona e Dio. Lascia il Dio del tuo ventre, l'Apostolo Paolo ne parla. Ciò che è piacevole per te, quelle che sono le inclinazioni del tuo cuore, della tua carne, lascia. Lascia il tuo istinto, lascia il tuo naso, lascia il tuo navigare a vista, lascia il tuo discernimento. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Voglio pregare. Mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, se una parte o più parte di questo messaggio sai che era per te, ti chiedo di alzare le tue mani, voglio pregare per tutti coloro che vogliono trovare orientamento in Cristo. Grazie Padre per Ruth. Grazie Padre per questa donna riscattata. Grazie perché ci parla del tuo amore. Grazie perché ci parla del tuo ridirezionare, ricalcolare il percorso. Grazie Dio perché noi siamo Ruth, vedove senza figli, povere, smarrite e con falsi dei. Questa era la nostra condizione, ma tu ci hai riscattati. Tu sei quel marito buono, perfetto, integro, che ci ha sposati, che ci ha dato una nuova eredità, e noi vogliamo celebrare tutto questo questa sera, riconoscendo che è in virtù di quello che tu hai fatto su quella croce che noi oggi ereditiamo la vita eterna e orientamento per i nostri giorni. Voglio pregare per tutti coloro che hanno le loro mani alzate in questo momento. Voglio pregarti in questo momento, Signore Gesù, di mettere la tua verità nei loro cuori, e che la bugia possa essere rimpiazzata dalla verità tua, che le paure possano andar via nel nome di Cristo Gesù, che il timore, lo smarrimento, la tristezza di questi tempi possa essere rimpiazzata da un senso di sicurezza e stabilità e forza e orientamento, perché sei vivo e ci sei e sei per loro, sei per noi. Io prego in questo momento che il maligno sia allontanato dalle nostre vite. Io prego, liberaci dal male. In questo momento fai una cosa nuova, dai nuovo orientamento, dai nuova direzione e soprattutto metti in noi fede e sicurezza. Che anche nel momento più di smarrimento possiamo sapere che se l'hai fatto con Ruth, lo puoi fare anche con noi. Io benedico.